mi viene in mente una cosa, giusto per la prima cosa che hai detto, quando hai parlato di un corpo che è un oggetto utilizzato dal sistema. Io penso che partire da questo tipo di concezione sia molto indebolente. Penso che impedisca una riappropriazione del proprio corpo e della propria scelta di come rappresentare la propria identità. E è qualcosa che noi abbiamo sentito molto forte, questa scissione fra il nostro corpo fisico e la nostra identità, quindi la persona che ci sentiamo di essere. Partire da questa prospettiva, secondo me, significa riprodurla, continuare a riprodurla. E questo è appunto molto, molto indebolente. E un'altra cosa che mi viene in mente, rispetto anche a questi racconti che tu hai raccontato adesso, e rispetto all'immaginario che si gioca sul corpo, nel senso che io posso utilizzare il mio corpo come veicolo di significati e connotazioni che voglio trasmettere. Penso che una conquista, comunque una prospettiva di cui stiamo discutendo anche con Refe, è come decostruirsi, come individuare quelle incrostazioni, quei significati che ci sono stati appiccicati addosso, che sono stati appiccicati addosso al nostro corpo, e come trasmettere i nostri significati. E quando dico nostri, io non penso a un nostro di gruppo, ma dico nostro come individua, nel senso che penso che la grande difficoltà sia riuscire a decostruirsi ed elaborare quali sono i propri significati individuali e come riuscire a trasmetterli senza confondersi, senza essere fraintese. In questo senso penso che ci sia anche una grande mancanza, una mancanza di un linguaggio condiviso che possa aiutare a interpretare il corpo. E non è un caso che noi abbiamo utilizzato le visualizzazioni, quindi delle immagini. Da una parte ci siamo un po' scollate dal corpo, abbiamo riprodotto questo scollamento dell'identità dal dato fisico, dall'altra invece in qualche modo abbiamo testimoniato che c'è proprio una difficoltà a percepire il nostro corpo, a raccontarlo e a farlo capire alle altre. E nel momento in cui ti trovi fra donne a raccontare le tue esperienze, il tuo vissuto, e vuoi trovare anche e trovi delle costanti, delle similitudini, ma non riesci a raccontarlo, allora lì c'è un enorme problema, un problema di comunicazione, un problema di ribaltamento dei vecchi significati in significati nuovi. E penso che una prospettiva interessante da discutere fra donne sarebbe proprio questa: come possiamo comunicare i nostri significati, come possiamo chiarirli a noi stessi prima e come possiamo condividerli con le altre dopo, e poi ovviamente come si espanderanno a cascata nel mondo. Non volevo sostituire questa visione alla vostra, volevo soltanto integrarla. Ecco. No, ma è chiaro, non volevo suggerire questo. Io no. Volevo aggiungere solo una cosa, che questa parte sul corpo comunque è una parte difficile, nel senso, a parte che è legata al lavoro sull'immaginario, che è tutto in evoluzione ed è iniziato da poco. Però mi sono resa conto, che, e non solo con Refe, che quando si parla di corpo, partendo anche dall'abito, no? Noi l'abbiamo chiamato l'abito feticcio, che a volte ti dà una falsa identità, sono uscite fuori anche i nostri vissuti, no? Ci siamo anche rese conto, per esempio, che alcune di noi, fin da piccole, chiaramente inconsciamente, avevano visto che in questa società il modello vincente, quello che ti dava più opportunità, era il modello maschile. Perché tu vedevi fin da subito che lì avevi più possibilità, poi non condivise chiaramente, poi più là coscientemente, però tante di noi hanno assunto, ma non tanto nel vestire, che poi, ma nel modo di fare, quindi applicando poi dei comportamenti patriarcali che poi ci hanno messo tanto a decostruirli perché facevano fatica a riconoscerli, però avevano visto che quello nella società era il modello vincente. Altre invece, per esempio come è successo a me, per esempio la mia esperienza, per me il modello maschile è sempre stato negativo, diciamo, fin da quando ero piccola. Per cui io, per esempio, ma lo dico, so chiaro che non lo penso più, ma io fino a una certa età pensavo razionalmente che i maschi fossero inferiori da tutti i punti di vista. Perché quello che forse volevo anche vedere, ma anche per una... Perché non lo pensi? No? non sono tutti così, delle volte lo dico e lo penso, ma però pensando a questo... Mi sono anche resa conto che questa modalità, per la mia esperienza personale, mi ha portato invece poi ad assumere invece quelle costruzioni femminili, che neanche quelle mi stanno bene, cioè di quelle, per esempio, io ho i capelli molto lunghi, ma perché è una mia forma di resistenza al fatto che mi rasavano da piccola continuamente, quindi io avrò per sempre i capelli lunghi perché è stata una mia forma di resistenza a una cosa che io non volevo sul mio corpo. Per cui da qui è nata questa cosa. Però appunto questo ha fatto capire a tante di noi che avere un modello maschile negativo ci ha portati a volte forse a riconoscerci in quella maschera che Margherita cerca di togliersi nella pazza. Quindi è difficilissimo, cioè, vale la pena farlo, ma è difficile decostruire quello che ti viene appiccicato addosso e anche i due modelli. Infatti prima, non so chi l'ha detto, forse tu, che parlavi di... Mi è venuto in mente il luogo terzo di Daniela Pellegrini, no? Quel luogo terzo che non ce lo dà nessuno e che ce lo scegliamo noi, dove ricostruire il nostro immaginario, il nostro corpo, qualsiasi cosa sia. Poi la domanda sul vestito feticcio, siamo ancora in elaborazione. Giro di domande. No, io trovo che una cosa che ho trovato anche interessante, che in realtà non è proprio appunto un capitolo specifico del libro, ma che poi voglio dire, ne abbiamo parlato anche proprio stasera in diverse occasioni, del separatismo, insomma, come pratica. Io ho trovato interessante il modo in cui più o meno si parla di questo spazio-tempo protetto, perché quando insomma viene descritto, in realtà, cioè viene descritto come una bolla protettiva ma traspirante e trasparente che mi accompagna nella giornata e nel mondo. E cioè, ho trovato interessante perché voglio dire, almeno questo è quello che io ho capito un po' da diciamo quello che, da queste parole, in generale dalla descrizione di questa parte, e che questo separatismo in realtà non è un rifugio in cui chiudersi, rimanere, insomma, che deve, cioè è un mezzo e non un fine. Ed è interessante perché appunto, quindi è una bolla protettiva che però appunto in realtà ha una relazione osmotica con l'esterno e che comunque appunto mi accompagna nel mondo, ma non cerca di rimanere lì chiuso. E quindi ritorno al concetto della dinamica, della comunicazione, che anche proprio col corpo poi mette tanto in luce, in risalto il fatto che comunque la comunicazione è alla base di quello che è poi anche il ricostruirsi una propria o identità o comunque una decostruzione qualsiasi. E quindi questo l'ho trovato molto interessante perché cioè anche in maniera più pratica il fatto che anche qui ci sia voi abbiate sentito la necessità di fare una presentazione separatista, ma poi comunque dopo due giorni voi fate una separazione, cioè una presentazione nel misto, cioè secondo me è una cosa molto importante perché mette in luce questo, cioè il fatto che non vuole essere un momento fine a se stesso e richiuso, ma che sia un momento per una crescita che sia interna ma che poi vada anche all'esterno, perché comunque con questo esterno c'è una comunicazione che arricchisce anche noi e che serve a cercare di modificare anche l'esterno. Cioè io c'è una parte che aspetta che l'ho letto e che perché C'è una parte alla fine proprio in cui poi si parte un po', si parla un po' della costruzione possibile della rete che ci può essere, in cui voi dite: abbiamo l'ambizione di azzardare il sogno di una rete di collegamento tra donne, compagne se vogliamo, che parta dalle donne e venga riproposta negli ambiti che frequentiamo, perché questi non ci sono né estranei né tantomeno nemici, e perché non possiamo accettare che sessismo e violenza di genere siano l'ennesimo affare di donne delegato alle cure e ai mal di pancia delle donne. E quindi io ho trovato che questo aspetto è importante, perché spesso viene confuso il separatismo come appunto una chiusura totale a quello che è l'esterno, e che sia una cosa atemporale e senza dove appunto non dico, cioè parlo proprio da come viene presa dall'esterno, anche quando a me mi capita di parlare con persone, a me capita di parlare con persone all'università e donne anche, ed è sempre molto difficile quando si spiega, anche persone a cui ho detto questa cosa di stasera, diventa sempre difficile rendersi conto, ma come separatista, cioè che vuol dire? E quindi viene sempre vista come una cosa di una cosa chiusa e ecco, più un rifugio. Invece penso sia importante il fatto che, pur essendo uno spazio-tempo protetto e quindi anche necessario, è comunque un qualcosa che è appunto un mezzo, non un fine, e niente, diciamo, questo era una cosa che io ho trovato molto interessante, che comunque trovo che viene ripercorsa appunto in più punti nel libro, anche quando si parla di corpo, che come ha detto anche lei, cioè che penso sia molto importante cercare di mettere insomma in luce questo aspetto. In questo separatismo, secondo me, a tanti uomini fa paura perché non hanno potere su questa cosa. Non parlo di donne, per le donne magari è altro. Sì, infatti volevo aggiungere solo questo, che siccome la maggior, anzi tutte noi di Refe siamo quasi tutte, la maggior parte siamo nel misto. Il separatismo per molte di noi, o penso per me stessa, anche quando diventa argomento di confronto con altre compagne che però non fanno, magari non ci incontriamo in un percorso più di genere, dei momenti di confronto, il primo problema è che viene vissuto anche non solo come una chiusura, ma come una sottrazione, un probabile depotenziamento di una lotta. E invece è il contrario, e la cosa probabilmente è un compagno particolarmente illuminato, ma credo che una delle definizioni, se si può chiamare definizioni, ma delle spiegazioni migliori che ho sentito e che mi ha particolarmente colpito deriva da lui. E invece no, è un'aggiunta. Nel momento in cui il separatismo fa quel salto di autonomia e di forza, apre una possibilità e una potenza, e quindi apre un'aggiunta all'interno anche di una lotta, e quindi la rafforza, la completa in alcuni passaggi, talvolta va a sciogliere dei nodi che altrimenti ci si troverebbe impotenti di fronte a questi, e va proprio vissuta così, come un'aggiunta. Ma se in primis non la viviamo noi come un'aggiunta, è estremamente difficile. E infatti la difficoltà più grande non l'ho mai avuta con i maschi, con i compagni, perché va da sé che comunque o lo vedono un po' come chiusura, o a parte qualche illuminato come il compagno che mi ha particolarmente colpito quando ha dato questa definizione, ma è con le donne, perché spesso e volentieri mi ritrovo a discutere con le compagne che lo vedono come una forma di sottrazione e depotenziamento, e questo credo sia lo sbaglio più grosso. Perché è proprio un'aggiunta, è una forza incredibile, ma deve essere vista in quest'ottica qua. Secondo me anche perché non lo si riconosce nella pratica. Io insisto su questa cosa perché mi ricordo che a Milano, quando abbiamo fatto i primi corsi di autodifesa, anche con Nicoletta, no? Diceva: non parliamo di femminismo, perché pratichiamolo, oppure poi alla fine diciamo: beh, oggi abbiamo fatto questo, che è una pratica femminile, per vedere un po' le reazioni, perché delle volte definirlo prima anche una pratica come spaventa, no? Infatti anche a me personalmente, che gli uomini capiscano cosa sia il separatismo mi interessa relativamente, ma invece con le donne che dici: ma allora forse il passaggio del, in questo caso la teoria tra virgolette viene dopo della pratica, cioè almeno nella mia esperienza è avvenuta dopo, l'abbiamo definita dopo, ma intanto l'abbiamo praticata, tant'è che tante compagne sono tranquillamente delle femministe ma non si vogliono definire tali, e va bene, cioè nel senso magari supereranno anche quella cosa lì, però nella pratica poi lo sono. Però per dire, la pratica separatista è quella che secondo me porta ancora più, diciamo, agli umori, io vedo soprattutto in mezzo ai compagni, in cui bene o male se ti vedi e fai una discussione tra donne in qualche modo passa, diciamo, un po' perché magari neanche se ne interessano, qualcuno perché l'ha magari anche metabolizzato, ci ha ragionato, l'ha riconosciuto, ok? Però questa cosa che proprio non va giù, e lo dico io che non è che ho percorsi insomma separati, avviati, però il fatto che comunque vengono organizzati comunque dei momenti comunque di lotta e separati, questa è una cosa che proprio non va giù alla maggior parte dei compagni, almeno o secondo la mia esperienza. Io mi sono ritrovata più volte a dover discutere una cosa che tendenzialmente io come mia pratica di lotta non tendo a fare, perché sono sempre stata più o meno in percorsi misti, a parte qualche momento separato, però è una cosa che riconosco, capisco, insomma, o ci partecipo, e però è proprio difficile da comprendere, perché c'è proprio questa cosa del io voglio lottare con te e tu mi escludi, e perciò la questione del depotenziamento, che a parte quello che vabbè, la solita cosa, nel senso vabbè, ti va e improvvisamente scegli di voler lottare su alcune cose solo quando qualcun altro le tira fuori, magari non sei mai tu a tirarne fuori, ma questo non solo se diciamo se si parla di violenza di genere, anche non lo so, a me è successo un po' di tempo fa, per dire, quando avevano fatto l'ennesimo scherzetto alla sede di Via dei Volsci al 22, che fu organizzato, non mi ricordo, era un aperitivo separato, e lì ci fu una grossa discussione, perché comunque tutti i vari compagni non gli andava giù, e dice cavoli, anche a me sì, perché dice anche a me ma fanno un altro gioco. Però ecco, a me sembra più, non è che da una parte potrebbe anche avere senso in teoria, il problema è che mi sembra sempre come un'occasione per poi usare poi il cavallo di battaglia del tu a tua volta mi stai escludendo, no? Più che una reale, perché se tu capissi quell'esigenza, comunque capissi quel percorso, semplicemente invece di criticarmi avresti una controproposta, non lo so, una controproposta, cioè questo per quanto riguarda sia i momenti di discussione, per cui io preferirei che invece sentirmi attaccata sul fatto che scelgo di vedermi tra donne e parlare, che ne so, di violenza sulle donne, non dico una cosa a caso, tu proponessi di fare un percorso anche misto su questa cosa, che invece poi è uno spazio che non viene mai, e questo anche per le pratiche, non lo so, poi è una cosa su cui a me succede di ragionare a mozziche bocconi, perché poi alla fine non avendo apposta un percorso o di genere mi ritrovo sempre a discutere per lo più poi con le compagne con cui mi vivo i percorsi misti, e che fondamentalmente siamo attaccate magari in quanto poi partecipanti a momenti separati, spesso poi non sempre hai neanche gli strumenti, perché io poi mi sono ritrovata negli anni che avendo una lacuna dal punto di vista del confronto con altre donne sulle questioni di genere, di genere, come le vogliamo chiamare, e tante volte mi mancavano anche gli strumenti per argomentare. Io ho avuto un sacco questo problema, per questo inizio a pensare da non troppo tempo che il fatto di avere dei momenti separati è molto importante anche per questo. Questa può, almeno dalla mia esperienza personale, proprio per avere degli strumenti nostri. Io vedo anche quando, per dire, ci sono delle discussioni tra donne che comunque sono abituate da più anni a fare dei percorsi, per me delle cose non sono automatiche come vengono magari ragionate. Vabbè, mi sono allargata un pochino, però Io penso che, per esempio, su questo che dicevi tu, che io pure sto al 51, quindi comunque è una situazione mista, e però insomma ho intrapreso, cioè nel senso abbiamo creato un collettivo anni e anni fa, insomma, di quartiere, così, che poi è confluito in coordinamento fondamentalmente. Quindi non ho avuto il tuo passaggio di arrivarci più tardi al separatismo, però mi sono resa conto che frequentando parecchio i compagni, e poi appunto sempre ricollegata alla questione del corpo, io invece sono cresciuta in una situazione di tanti bambini nello stesso palazzo, quasi tutti maschi, io la più grande, e quindi, cioè, io ho praticamente sussunto la donna forte e col pugno duro, perché dovevo, cioè, mi devo occupare di 40, cioè di 10 ragazzini maschi, e quindi, cioè, nel senso, l'unico modo era essere, insomma, cioè, più maschio di loro, no? E quindi, vabbè, questo ovviamente ha portato poi delle varie cose differenti nel mio percorso. Però mi sono resa conto che, per esempio, poi non so se è una spiegazione teorica, però sulla pratica la vedo molto, cioè nel senso la mia generazione, che è quella dei trentenni, ha subito negli anni 80 una pacificazione sociale su tutta una serie di lotte, quindi non solo quella femminista sicuramente è la più grande tra tutte le lotte che è stata a cui hanno tarpato le ali, perché effettivamente c'è stato una specie di buco che poi non c'era effettivamente, cioè le compagne continuavano a vedersi e continuavano a fare lotta femminista, quindi era semplicemente la società che ha coperto questa cosa, o comunque un momento solo di ripresa di un certo percorso che a un certo punto si era perso e che si doveva ricostituire in qualche modo. E io mi sono resa conto che con, appunto, nei percorsi misti, questa pacificazione sociale in alcuni casi ha portato proprio alla negazione totale del fatto che ci sia il problema di genere, e quindi non c'è il riconoscimento del fatto che ci sia questo problema, perché cresciuti in una situazione in cui siamo tutti uguali. E questa cosa me l'ha riconfermata una compagna basca che ho ospitato neanche 2 settimane fa, e nei Paesi Baschi, almeno insomma Pamplona, Donostia, non so se conoscete un po' quella zona, effettivamente c'è un... non so bene come esprimerlo, però esiste insomma una sorta di rispetto, di antisessismo, sicuramente molto più pratico che qua in Italia, almeno nelle esperienze che ho potuto conoscere io. Anche andando là mi sono resa conto che invece c'è, nel senso, una situazione un po' diversa, cioè c'è stato un passo avanti rispetto a quella situazione che mi vivevo a Roma. Però lei mi faceva notare, scherzando con una battuta, che per esempio, cioè nel senso, quando qua in Italia c'è la cosa che c'è il maschio, no, che ti offre, che ti deve aprire la porta, che cioè deve avere un certo comportamento, e lei rideva dicendo, nel mio collettivo mi capita che addirittura i maschi ti chiudono la porta in faccia perché è considerato antisessista l'aprire la porta a una compagna. Cioè siamo arrivati proprio a la perdita totale proprio di comprensione del reale, no? Cioè del pratico, appunto, l'aprire la porta o il leggere alcuni gesti che non per forza debbano essere connotati, no? Nella questione dei ruoli, ma potrebbero anche essere altro, vengono estremizzati e vengono portati a questo. E secondo me questo meccanismo, in realtà, un po', parlo un po' dei miei coetanei, ci sta, cioè nel senso non si deve riconoscere assolutamente che c'è un problema di genere. Un po' secondo me anche dovuto a tutto il femminismo della differenza, cioè tutto quello sicuramente ha giocato poi un punto forte in questo. E poi secondo me pure perché la parte femminile che secondo me si nega al fatto di poter avere separatismo lo fa per riconoscimento, per essere riconosciuta, perché cioè nel senso anche nel movimento lo sappiamo bene tutte quante, cioè non è facile, appunto a me magari mi viene facile perché abituata, appunto cresciuta in un certo contesto, quindi capace di doversi alzare la voce per farsi ascoltare, non ho avuto troppi problemi all'inizio perché comunque era lo stesso contesto, dovevi urlare, io ero abituata a urlare e quindi mandava liscia. Però mi rendevo conto che effettivamente non era così, cioè nel senso conoscevo tante compagne quando ho iniziato politica molti anni fa che avevano paura a parlare in assemblee pubbliche o in contesti misti. E ancora adesso, ovvio. Però appunto cioè, questa cosa mi scioccava perché appunto io non capivo, perché ovviamente ancora non avevo compreso, metabolizzato, decostruito una serie di cose, quindi pensavo che fosse il mio carattere e basta. E poi mi sono resa conto che non era così. E dall'altra parte però non avevo gli strumenti per aiutare a dar voce a chi non riusciva a prendersela sta voce, perché pure lei doveva fare la sua decostruzione, che ovviamente sappiamo bene che non è una cosa che fai, ti fai due chiacchiere tanto belle e poi hai decostruito tutte le cose che hai in testa e che hanno costruito la tua persona. E quindi c'è, cioè, secondo me è su quello, cioè nel senso io pure quando molto spesso col 51 facciamo delle iniziative con le scuole e ogni tanto, cioè forse sembra stalkeraggio nei confronti delle quindicenni a volte, però provo a dirle, cioè non è che come dicevi tu non c'è bisogno che fate le femministe, no, nel senso che loro si immaginano, cioè tanto di parlare di alcune questioni che poi vedo che nell'insistenza attraverso pratiche differenti, ma pratiche comincia a scattare la molla, per cui dopo da sole se lo chiedono comunque di fare un ragionamento tra compagne e beccarsi in una situazione separata. E poi c'è anche una questione di privilegio, nel senso che consciamente o inconsciamente gli uomini, compagni, come li vogliamo chiamare, hanno paura di perdere i loro privilegi, e quindi quello è il privilegio. Che se ne rendano conto o no, è chiaro che se tu è meglio, come dire che non esiste un problema piuttosto che perdere il tuo privilegio, quindi di essere messi in discussione, quindi di, e anche le donne che si accodano, e le donne che si accodano, certo. Però mi viene in mente questa cosa, come ho detto, no? Che poi il problema, ad esempio, il 13 maggio qua, no? La situazione diplomatica, c'è stata questa marcia per la vita, no? Che ha fatto la Darsa insieme a tante altre, no? Abbiamo deciso di fare una contestazione di compagni, ci siamo riunite proprio qua e là è scattata la bagarre su devo partecipare anche io perché mi escludi, eccetera. Però in quella situazione tante compagne che non fanno percorsi separati hanno abbracciato, diciamo, e compreso subito la necessità che la presa di parola fosse delle donne in quel momento, delle compagne, no? Senza troppo, cioè diciamo, è stata una cosa molto istintiva, quindi abbiamo superato, diciamo, quel momento perché eravamo tutte d'accordo. Cioè, quindi quello che mi chiedo è, per far emergere questa spinta e questi momenti separati anche come pratica, per affermare questa pratica, il dire non sono femminista, prima facciamo l'autodifesa e poi ti dico che questa è una pratica femminista, come si fa negli ambienti di movimento? Cioè, quello che io non vorrei e che vedo come una, alla fine, depotenziamento è che esca fuori questa necessità soltanto quando si parla di violenza di genere oppure di incapacità nell'affrontare delle cose, perché si schiaccia quello che è il femminismo, lo sguardo di genere, il pensiero, cioè la lotta di genere, che è una cosa che va tenuta di pari passo alla lotta di classe, su dei temi invece che sono appunto relazionali, è uno schiacciamento questo. Invece a me mi interesserebbe proprio magari cominciare a trovare dei terreni in cui questa pratica possa venire fuori conflittualmente all'esterno, non dentro agli ambiti del movimento, oppure perché si deve risolvere il problema che non sai prendere la parola. Cioè, un conto è andare nelle scuole, mi è capitato appunto nelle autogestioni, no, di andare a fare questi questi workshop così, ed è un tema su cui quando una ragazzina ha 14 anni, no, cioè comunque si mette in gioco veramente nel parlare della relazione con i propri compagni di classe, però quando ce n'hai 25, quando, cioè a un certo punto mi sembra invece una cosa che si appiattisce un po', che si depotenzia. A me piacerebbe invece chi fa questi ragionamenti trovare effettivamente un terreno in cui poi si mette in pratica anche all'esterno questa pratica femminista, in cui questa presa di parola diventa, cioè non può essere semplicemente che ti attaccano in consultorio e allora tu là diventi, no, una soggettività politica che si muove all'esterno ed è riconoscibile, oppure c'è, cioè, la marcia sulla vita, cioè che ci fossero anche in attacco queste cose, cioè che questa pratica non fosse semplicemente quella che stiamo facendo qui adesso, ma che da questi momenti uscissero fuori degli obiettivi per cui se io devo combattere contro il taglio dello stato sociale, devo combattere contro la famiglia, perché in quanto unità economica, quali sono i terreni in cui io confliggo contro la famiglia intesa in maniera statica, gerarchica e funzionale, no? Di, cioè, questo a me mi piacerebbe, se no se esce fuori soltanto come, cioè, se non ho capito male, sì. Se non ho capito male è il discorso, lo sguardo, cioè una pratica di genere, lo sguardo di genere su tutto l'esistente e non lotte corporative specifiche. Questo in effetti, perché di fatto quando tu dici schiacciata su determinati temi, vuol dire che quando si parla di sessualità, quando si parla di consultorio, quando si parla di anticoncezionali, io mi pongo come pratica specifica, separata, e che ho fatto un'analisi di questo tipo. Quando invece si parla, non lo so, di lavoro o di stato sociale, eh sì, perché il rischio rischia sempre l'affrontare in maniera corporativa, perché quando tu l'affronti soltanto per una specificità e la circoscrivi, poi di fatto diventa corporativa. Sì, poi è vero anche che non siamo scisse, nel senso, io nelle mie pratiche, io sono femminista, lo sono anche in tutti gli ambiti in cui agisco, quindi quello è il mio pensiero, non è che sto a guardare, questo chiaro crea anche dei conflitti, delle rotture, ben venga, anche perché, come diciamo anche nel libro, il conflitto l'abbiamo anche visto come positivo, no? non subito, per cui è chiaro che ci sono dei momenti, soprattutto quando si spezzano nelle tue comunità certe dinamiche, c'è anche il conflitto che a volte porta anche alla non solidarietà e alla solitudine. È chiaro, non è facile, però è anche un passaggio importante, lo diciamo anche nella terza parte del libro, sulla quale poi appunto forse quella di cui abbiamo parlato di meno ancora, però non ci siamo più. Se ci sono domande o su quella parte lì o... Beh, in effetti diciamo che la terza parte sarà, dato che voi avete affrontato la violenza maschile sulle donne, soprattutto nell'ambito del movimento, diciamo il taglio che ne è venuto fuori è stato soprattutto di questo tipo, penso che in ogni caso domenica se ne parlerà sicuramente in maniera approfondita. Diciamo che rispetto a quella parte, la terza parte, in questo contesto, cioè qui proprio al porto fluviale, quando noi con le donne del porto, quando noi come coordinamento abbiamo presentato forse l'opuscolo, se non mi sbaglio, qualche altra cosa sulla violenza contro le donne, è venuto fuori un aspetto particolare che loro hanno indagato e che noi ci ha fatto, cioè ci ha dato moltissimo, cioè ci hanno raccontato della loro esperienza all'interno delle occupazioni su come hanno gestito la violenza maschile, sui rapporti che ci sono stati fra donne in questi casi, sul reciproco aiuto. C'era, dove è andata? Eccola. Io mi ricordo che Bussola, per esempio, ci ha fatto un racconto molto bello sulla sua esperienza personale che riguardava proprio la forza, da una parte preferirei che parlasse lei, perché io raccontare per interposta persona non lo so se le va. Siamo messi in difficoltà. E devo raccontare la mia storia. Racconta la tua storia, nel senso che in effetti quando ci sono delle situazioni come questa di occupazione, perché poi ce ne sono state tante di esperienze di questo tipo, vengono fuori dei rapporti di solidarietà fra donne, forse in maniera molto più specifica, sì. Ecco. E quindi magari raccontaci questo che... Vabbè, ve racconto... Alza un po' la voce. Vabbè, è un po' difficile per me. No, non sto bene qua. Diciamo, la mia storia era così, che vabbè, ero sposata con un mio ex, però le cose tra noi non andavano bene e ho trovato tanto appoggio delle donne di qua dell'occupazione, che mi ha aiutato molto a, diciamo, a uscire da questa situazione. E poi diciamo che sono riuscita a andare avanti e non guardare sempre indietro quello che è passato, però uno non deve sempre guardare quello che è passato e ripiangere addosso che io sono stata così, ho passato di situazioni brutte, però io mi sono data forza prima da sola e poi anche delle persone che mi circondano, che mi hanno dato forza di andare avanti, di guardare sempre, diciamo, le cose meglio. E l'occupazione, diciamo che serve anche a questo, io la penso così, perché quando stavo, diciamo, in affitto dentro una casa da sola non sapevo difendermi, subivo le violenze e stavo zitta, non sapevo manco dove andare. Però quando sono entrata in occupazione sono cambiate le cose per me. Ho capito anche tante cose, i miei diritti li capivo, però dico ogni giorno cambiavano le cose, andrà meglio, andrà bene, però vedevo che va sempre peggio e ogni donna di noi deve essere forte e dire basta sulla violenza, perché è una cosa bruttissima, bruttissima, che ti lascia proprio in segno per tutta la vita. Però uno meglio scordarsi e guardare avanti. Grazie. Grazie a te. Allora, mi presento, sono Samma. E niente, sono un occupante del porto fluviale. Mi dispiace che sono arrivata un po' in ritardo alla presentazione, come tema mi interessa. E, vabbè, sono stata un po' assente dalla scena, dalle piazze italiane per un po', quindi anche con le compagne. E, quindi non sapevo, tutti gli interventi che avete fatto, quelli che ho sentito poco fa, su alcuni li condivido, altri punti no, però ecco non avevo avuto un foglio per poterli appuntare. E, ecco, parlando io comunque come persona che è sempre cresciuta all'interno delle occupazioni, avendo come modello anche un modello di madre forte, ecco. Quindi vabbè, sì, vabbè, poco entra in di mezzo un po' la mia storia personale. La storia di Bushra, no? Che comunque mi sa che il suo vissuto, io mi ricordo che quando lei ha divorziato l'abbiamo accolta con dei canti, io marocchine, ed eravamo contentissime. E se veramente, se un giorno si facessero proprio delle ricerche all'interno delle occupazioni, si vede proprio il ruolo forte, importantissimo proprio delle donne che prendono proprio c'è una forma di coalizione femminile, di confronto, di dialogo, che proprio gli dà la forza di proteggersi. E il fatto continuo proprio di fare delle assemblee, magari non se ne rendono, cioè magari non ce ne rendiamo conto, no? Però ecco, come il fatto della ghettizzazione, no? Comunque dipende da che paese si viene, no? Comunque donne, come siamo fatte, parliamo, spettegoliamo così. Però alla fine poi si trova il coraggio di parlare dei propri problemi, di confrontarsi, di darsi consigli, e il fatto già di far parte di una rete, di un'occupazione, quindi di avere già a chi chiedere aiuto, per me credo che sia una grandissima forza. E, che altro? Ecco, io poi sono partita, sempre cresciuta nelle occupazioni, sempre comunque modello forte di madre, ho sempre rivendicato, non mi sono mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno, e il fatto della pratica di essere musulmana come donna, quindi il femminismo, se vogliamo definirlo, ecco, islamico, mentre da musulmane si dice comunque i diritti delle donne ci stanno già nel Corano, però ecco, sempre c'è il problema del patriarcato, della non pratica giusta dell'Islam, delle ingiustizie, quindi del maschilismo, bla bla bla bla. E in questo momento quello che voglio dire è proprio sento proprio il bisogno di dirlo proprio, dell'importanza del confronto delle donne tra di loro, e proprio del fatto del separatismo, ecco, perché tra donne riusciamo a parlarci, riusciamo a confrontarci, troviamo la libertà di esprimerci, ci troviamo in maniera molto easy, siamo tra di noi, siamo tra donne, quindi non abbiamo quel modello un po' di sbagliare il giudizio un po' dell'uomo, che magari non può mai e poi mai comprendere il nostro profondo di come ci sentiamo, perché come esseri siamo complessi, siamo qualcosa di top, di super, non so come esprimerlo. E in Francia quel che mi è successo mi ha scioccato, e sono stata in Francia, si è sempre parlato un po' di che è uno stato laico, che le lotte femministe sono molto, molto avanti, che quindi i mediatori culturali sono molto avanti, quindi danno una mano alle donne maghrebine, quelle che vengono magari da Bled, quindi magari che vengono dalle campagne, che vengono direttamente in Francia, che magari non sanno né leggere né scrivere, non parlano manco l'arabo, che magari parlano un altro dialetto, e che non hanno proprio tra comunità che vengono dallo stesso Marocco, però non riescono a dialogare tra di loro, perché c'è chi parla l'arabo, c'è chi parla solamente berbero. E quindi io ho conosciuto questa donna, una donna che da 10 anni quasi che sta in Francia, e mi ha raccontato che ha subito delle violenze incredibili dal marito, continua a subirle tuttora, e però non ha il coraggio di parlarne con altre donne. Perché? Perché dice, le donne ti dicono sì, vai, fai, devi lasciarlo a questo uomo, bla bla bla, però quando dice, io quando lo mollo, quando chiederò il divorzio, dove sbatto la testa, chi mi darà da mangiare, non ho dove abitare, tutte queste situazioni, le donne stesse gli voltano le spalle, non c'è un appoggio continuo finché non si alza in piedi, perché poi ci sta il giudizio, una donna divorziata, tutto un po' i pregiudizi che ci stanno dietro. E io ho fatto delle ricerche, quindi mi sono detta, vabbè, ti aiuto, non ti lascio, perché è proprio la pratica quotidiana, proprio, cioè dell'aiuto tra donne e tutto quanto. Quindi sono andata alla Casa delle Donne, là in Francia, e con grande sorpresa, vabbè, si definivano anarchiche, quindi dico, vabbè, è l'ambiente mio, sono sempre stata con i compagni, per me è il top. E no, sono entrata là, mi dovevo levare il velo, perché se tu vuoi entrare e far parte, noi siamo talmente laiche che non accettiamo che entrano donne con il velo, entri qua puoi levarti il velo, ma scusami, se entrano altri uomini, no, vabbè, però noi siamo fortemente, fortemente laiche. E quindi io poi alla fine gli ho detto, con loro a parte mi sono espresso, ho parlato un po' che sarebbe del tutto incoerente, che proprio un po' la laicità in questo momento all'interno delle donne crea un limite, una barriera di non dialogo, perché è vero, sì, siamo diverse, magari io proprio da musulmana, ecco, magari certe cose non sono d'accordo, però ecco, io non vado a vedere il contrasto, i punti non comuni, ma proprio la causa comune che ci sta. Poi gli altri sono delle sfumature che magari poi dopo se ne parla, quando si ha una conoscenza, un appoggio vero e proprio e duraturo. E niente, gli ho detto: perché non ti rivolgi vai a queste donne? Io ho fatto la prova per vedere, lei portava il velo, vabbè, è un velo, come dire, chi crede in Dio, tutto quanto, anche un velo un po' per tradizione, no? Quindi fa parte di lei, è un abbigliamento della sua identità, quindi non se la sentirebbe mai di levarlo. E lei ha detto: no, non vado a chiedere aiuto a loro, non vado, e lei sta là nella sua situazione così, perché proprio ci sta questa barriera, e loro proprio si rifiutano, se devi venire, no, tu come donna ti devi levare il velo. E niente, poi altre esperienze della Francia, pure con Sonia, quanto è stato, nel 2005? Sì. Ecco, proprio delle femministe, no, musulmane, non so, mi riesce pure difficile in questo contesto la religione, e metterla in questo contesto, che in pratica hanno detto: no, voi non potete partecipare con noi alle nostre manifestazioni perché voi siete delle donne sottomesse. E riesce, a me suona duro per le mie orecchie, proprio perché ecco, proprio da musulmana, quando so i miei diritti non me la prendo, perché sono sottomessa da chi cacchio sono sottomessa, da un patriarcato, da una società, da un qualcosa di veramente grande a livello politico internazionale, dei modelli che sono stati portati avanti per secoli e secoli, è quello che mi sottomette, però di certo non una delle mie scelte religiose, quindi proprio la mentalità che sta del maschio oppressore, bla bla bla, e della donna che comunque come soggetto, oggetto di debole. E niente, no, in breve, l'importanza proprio del separatismo, che per certi punti la trovo, c'ha molti punti positivi, e oltre a questo, ecco, che poi dopo devono portare poi un altro confronto per dare una sensibilizzazione, perché comunque noi come donne la maggior parte delle violenze da chi le subiamo, a volte certi meccanismi li riproponiamo anche tra di noi, perché ecco, ci sono ecco delle coppie, ecco, che magari trovi, non se, che uno deve fare il ruolo del maschio oppure della femmina, quindi magari, non so, scusatemi se mi esprimo un po' male oppure tocco qualche punto che magari può, quindi non è che non ho esperienza, però ecco, magari dei modelli proprio di maschio oppressore, ecco, si identifica nel maschio di forte, quindi magari tratta la compagna in una maniera sbagliata, quindi certi meccanismi a volte sbagliamo anche a riproporli tra di noi, che magari li combattiamo, però alla fine ci troviamo che l'abbiamo assimilati e non c'è quel rispetto che dovrebbe esserci, quello vero e proprio di una lotta dal basso fatta per bene. E che altro? Di questa importanza qua? Ah, mi sono persa. Sì, sì. No, ma perché? No, vabbè, ma perché sono tornata talmente scioccata dalla Francia, dal confronto che ho avuto. E poi ecco, non mi sono preparata sul tema, che poi non ho capito bene. Ecco, mamma chiedeva chi è che ha scritto veramente il libro, ma qua si è tutte, ecco. E, mi piacerebbe. Perfetto. No, mi piacerebbe comunque in futuro che ci fosse un maggiore delle riunioni così simili, un maggior confronto, soprattutto tra noi donne, magari di altri continenti, di altri paesi, di vedere come viene sviluppato, perché ecco, l'abbigliamento, l'aspetto esteriore può dire tutto e niente. Perché l'abito non fa il monaco, e ecco, magari su. Credo che ci sia veramente bisogno di confronto per dare proprio in questo momento, proprio a livello di periodo storico, no? Delle lotte del femminismo, un anno in Italia che è successo, che non è successo niente, che nulla, che si è smosso, sembra che sia sempre sullo stesso punto e non c'è sta proprio quel. Non si riesce un po' ad avanzare su certi punti, ecco. E niente, ecco, io da me proprio, da Samaz, mi piacerebbe anche confrontarmi, fare proprio una ricerca mia, persona un po' più profonda, per poter poi condividerla insieme a voi proprio sul femminismo islamico e delle donne e donne in generale, musulmane nel mondo arabo. e magari fare anche un'analisi un po' cosa dice il Corano, magari io stessa magari su certe cose non le so proprio in profondo, però mi piacerebbe metterla a disposizione di voi, ecco, se magari capitassero delle situazioni, se vi capitassero delle donne, sapete con chi avete a che fare, in che maniera sviluppare la cosa e risolvere la questione, al di là di tanti libri scritti scritti che magari è tanta teoria, però nulla di pratico, ecco. A voi. Posso dire solo una cosa, insomma, cioè, sì. Prego. Sì, non è una risposta, è solo una risposta personale alle cose che hai detto, perché io come mi sento in questo discorso, e come francese, perché in mezzo a questo, mi sento un po' in mezzo a una cosa che, cioè, da una parte mi riguarda, perché infatti si parla di donne, ma mi sento tra un discorso che è il tuo e che capisco, e un discorso di tante compagne che hanno sfuggito dai paesi islamici e che portano una laicità e chiedono alle francese femministe di difenderle. Solo per dire questo, no? Dunque, come io come persona, come femminista, cioè, questa cosa per dire che ci sono le due, cioè, ci sono, no? Poi dopo possiamo sviluppare, lo possiamo fare dopo un altro momento, solo per dire, cioè. Sì, ci sono tutte e due grandi condizioni, quello che vedo le cose sempre a livello globale della manipolazione che ci sta e della storia coloniale che c'è sempre stata dietro e della manipolazione. Ecco, comunque la laicità in Francia per me la vedo, per me come persona è stata più un limite che uno sviluppo così. Poi. Però scusate, no, io sono per capire quello che dice la signora, sì, nel senso, se da una parte tu dici comunque la conquista come forma di lotta personale della laicità, no? Nel senso, comunque io ho come mia forma di lotta, divento laica perché rifiuto quel modello, eccetera, eccetera. E che questo ovviamente lo capisco, però non capisco il discorso per cui ti senti attaccata nel tuo percorso di lotta se poi c'è un'altra persona che porta quell'abito che per te dimostra quella cosa, cioè a me sembra, per riportarlo un po' su una cosa magari un po', no, solo per capire se ti ho capito, che sono davanti a me delle donne che si dicono femministe islamiche e delle donne che hanno sfuggito le pese Iran e che dicono come femministe abbiamo dovuto sfuggire questa cosa là, e voi come femministe europee non ci rimettete nella cosa di avere a essere questa cosa là. Che mi hai detto, me l'ha detta la stessa, dice che cioè avere a che fare con femministe islamiche. Quello che vuole dire è che, se ho capito bene, no? Che ad esempio le... si parla di corpo, di donne che si ribellano da una forma di patriarcato, di repressione talmente presente da parte dello Stato, che per loro è la speranza, finché ci sono altre donne nel mondo che lottano, gli dicono continuate a lottare, questo che mi è stato sempre nel modello laico. Però posso dire una cosa, sono rapida, cioè io credo che siano importanti sia il discorso di casa nostra, quello che facevi tu sì, qui, secondo me un altro punto di vista, ovviamente non è in contraddizione, cioè io credo che quello che è importante in questi discorsi è ragionare sull'autodeterminazione delle donne, per cui è chiaro che se una si ribella alla religione come qualcosa che le viene imposto, è chiaro che io sono solidale con lei e col suo processo di percorso di liberazione. Il discorso che faceva Sama ovviamente secondo me è un po' diverso, nel senso che io pure, no, noi voglio dire, siamo amiche e compagne, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, però lei lo sa benissimo e io no, so per la cioè non sono religiosa, sono laica, non, cioè per me la religione è uno strumento d'oppressione, insomma tutte le religioni, però non gli ho mai detto sei sottomessa perché lei crede nella sua religione, perché lei mi ha sempre detto che è una sua scelta, no? Quindi sei comunque pure tu. Ma figurati, quello è chiaro, siamo, cioè forse è l'unica cosa, cioè, la cosa che, cioè, su cui una costruisce poi appunto i percorsi, le affinità, le alleanze, so, magari appunto le forme di oppressione che si condividono, però semplicemente, cioè io credo che quello che ricordava lei, l'esempio della Francia, era il caso delle, cioè delle femministe francesi che escludevano dai loro percorsi le donne musulmane, cioè noi abbiamo conosciuto lì insieme queste donne dell'associazione delle donne musulmane che erano proprio state escluse da tutta una serie di percorsi di lotta delle femministe francesi, semplicemente, no, per il fatto di voler comunque portare il velo, e quello ovviamente è problematico. Però io volevo dire solo una cosa, cioè di esperienza, che forse è un, cioè secondo me, magari te non lo sai e non vi conoscete di persona, però hai chiesto chi è che ha scritto il libro realmente. Sì. Siccome Samà ha sempre fatto la trasmissione Silenzio Assordante in radio sui CIE con noi, le compagne di Milano che hanno scritto il libro sono quelle che sentivamo sempre per telefono, del comitato di razzista. Ho sentito qualcuno che ha detto quindi, Nicoletta, no? Cioè, appunto, quindi le conosci già. Forse voce ti è più familiare. Però, cioè, per dire che lì, insomma, cioè, delle pratiche comuni ce le vabbè, abbiamo. Voglio. Allora, l'ultima parte è questa sulla violenza che avete indagato. Io vi faccio una domanda, la faccio un po' a tutte. Allora, non so se l'ultima parte del dibattito, appunto, la vogliamo sviluppare domenica al... al Casale Alba, e ditemi voi se volete, come vi volete. La scelta, secondo me, non dipende da noi, ma di tutta parte di una cosa, non possiamo scegliere noi. No, vedete voi, insomma, se ci sono delle domande, anche perché è chiaro che questo momento è diverso da quello che questo momento è diverso da. Sono d'accordo con lei. No, tagliamo mezzo al toro così. No, diciamo, come si dice, tirare le fila di, le fila di una cosa e andare a cena. Io apposta, vabbè, lo stavo dicendo, però ci tengo a invitare, insomma, tutte quante. Ah sì, diciamolo domenica. Che cos'è. Sì, perché vabbè. Per chi non lo sa, vabbè, Alba 2 è un casale che è stato occupato all'interno del parco regionale d'Aguzzano, che è il parco, quello per capirsi, quello che, dove inizia, dove facciamo sempre i presidi al carcere di Rebibbia. Da lì è un parco molto grande, c'era questo progetto apposta di un ICAM per madri con figli, che sarebbe un istituto attenuata per madri, in realtà era il progetto, da progetto regionale, un vero e proprio mini carcere. E vabbè, è nata questa lotta territoriale, ma senza, vi racconto tutto quanto, e a dicembre abbiamo occupato questo spazio, che è uno spazio aperto al quartiere. Siamo un'assemblea super eterogenea, saremo una quarantina di persone a, diciamo, gestire il posto, che vanno, il più piccolo a 19 anni, il più grosso sono a 73, perciò c'è un'intergenerazione e c'è un po' di tutto, questo per anche previsarvi, c'è da compagni se ammette le mani avanti. Io non li vedo nessuno. No, è una situazione, vabbè, io ci sto, perciò secondo me è interessante, stimolante, siamo cresciuti tanto insieme nell'ultimo anno, c'è ancora tantissimo da fare, tante differenze, però anche, insomma, cosa. E il motivo per cui vi invito tutto è perché è da un po' di mesi che noi, un po' di donne del casale, ci diciamo che avremmo voluto iniziare a portare, insomma, la discussione comunque sulla discriminazione di genere, una discussione antisessista comunque all'interno del casale, perché non ne avevamo parlato neanche mai, semplicemente tra donne, come la vedi, come la senti, come... E è capitato, insomma, apposta questa cosa della possibilità di presentare il libro, abbiamo scelto di farlo, già sono nate tantissime discussioni però ecco, noi ci siamo fatte per la prima volta una bella discussione tra donne, che non era mai successo in questo anno, e apposta l'iniziativa sarà mista. E ci piacerebbe insomma che partecipassero anche le donne che ci sono questa sera, a maggior ragione che ci sono anche alcune di voi che hanno riflettuto magari molto più di noi sulle questioni comunque di genere, o di non genere, come vogliamo dire, sulle questioni femministe. E boh, vabbè, niente, perciò io sono anche tabù, cioè non lo so, peggio, non lo so, perché le dice a lei il separatismo, io ancora allora anche ora, no, anche ora? Alle 18. Alle 18 al casale. Io ho una domanda. Alle 18. Alle 18, no, andiamo a essere puntuali. Alle 18 c'è la discussione, e poi dopo c'è ci sono le stacche a spillo, che per chi non conosce sono un gruppo di donne che suona fiati, molto carine, e in acustico, perciò, e niente, un po' di musica, molto. Io una domanda alle compagne di Refe su quest'ultima parte gliela vorrei fare, mi è venuta in mente perché tra i tanti ambiti che apre la violenza maschile sulle donne, voi in effetti avete scelto quella della violenza all'interno degli ambiti di movimento, no? Più o meno da indagare. Questo perché? Perché vi interessava in particolare il rapporto con l'esterno, oppure perché deriva dal fatto che voi avete fatto una scelta che noi come coordinamento condividiamo moltissimo, che è quella del no alla vittimizzazione? Perché in effetti, che poi noi a un certo punto ci è venuto anche in mente di dire no addirittura al termine autodifesa, perché anche a noi. Perché anche l'autodifesa è in effetti un concetto sulla difensiva, no? E quindi da queste due posizioni forse è venuta questa scelta di indagare quest'ambito o da altro? Guarda, allora, la scelta di affrontare la violenza maschile sulle donne all'interno del movimento è nata anche perché le compagne di Torino uscivano anche da un'esperienza loro personale, dalle quali si erano comunque sottratte perché non erano riuscite. Che in effetti sono le uniche che non ci sono. Sì, purtroppo non sono riuscite a venire. E che avevano vissuto e forse avevano continuato lo stesso il loro percorso politico, ma fuori dall'ambito in cui non erano riuscite a trovare una complicità con le altre compagne e anche a trovare strategie comuni. Quindi loro era stato proprio un bisogno di doversi confrontare con noi, con altre compagne, su questa cosa qua, perché della violenza maschile sulle donne ne avevano anche già parlato tanto negli anni, qualcuna anche per 20 anni, no? Quindi erano arrivate al punto di dire va bene, adesso però a noi è accaduto questo, è chiaro che non è che solo nella città che si è presa carico, diciamo, di questo tema, perché poi ci siamo rese conto che avviene in tutte le città e in tutti gli ambiti, purtroppo è una cosa ancora attuale, e quindi il loro obiettivo era portarlo per la prima volta tutte insieme in un ambito misto, come è stato poi anche alla prima presentazione nella città di Torino. E avere anche loro poi dopo quella presentazione hanno detto abbiamo sentito la forza di aver cominciato un percorso insieme comune, e quindi la forza di tirarlo fuori in ambiti dove probabilmente sole forse non ci saremmo riuscite, e dove trovare delle strategie comuni probabilmente loro avevano fatto un passettino in più rispetto alle compagne che di solito si sottraggono quando c'è una situazione di violenza, è sempre la donna che se ne deve andare, e allora adesso basta, no? Anche se e poi spesso anche smette di fare politica o cambia ambito. Loro hanno avuto comunque anche sono state determinate, hanno avuto la forza comunque di continuare il loro percorso politico ma fuori da quell'ambito, e la questione della non vittimizzazione è uscita subito, nonostante poi i 13 episodi sono comunque un crescendo in negativo. Nelle nostre discussioni ci siamo anche dette, beh, però si può fare anche altro, nel senso, mi ricordo che anche alla campeggia una compagna aveva raccontato invece degli episodi in cui le donne avevano reagito, e anche in modo molto determinato, a delle violenze, per cui è proprio da lì che è anche scattata questa cosa, non usciamo dal vittimismo. Sulla questione dell'autodifesa è comunque uno strumento valido, nel senso che anche la mia, per esempio, formazione anche da quel punto di vista è nata anche le prime volte che ho fatto uno stage di vendo, o comunque ho intrapreso quel percorso che non è solo l'autodifesa, ma ha dietro tutto un discorso che è di presa di coscienza politica, personale, quindi quel termine lo possiamo anche usare in determinate circostanze, superiamolo quando parliamo invece di reagire in modo concreto, reale, uscendo dal vittimismo. Non so se avete che poi si riallaccia al discorso del quinto quadro di Margherita, che è la riappropriazione della violenza, che ha suscitato sempre un po' di sorpresa all'inizio, almeno nelle presentazioni fatte fino ad ora. Forse l'utilizzo del termine che fa un po' sobbalzare, perché nell'immaginario, no, la violenza c'è sempre chi la subisce, no? Su qualcosa di attivo che viene subito da qualcuno, e il più delle volte quel qualcuno nell'immaginario è una donna. Però tornando al discorso che facevamo, penso che l'esempio più concreto che infatti viene portato nel quinto brano è il racconto delle ribelli di Corelli, perché lì c'è stata secondo noi una riappropriazione di violenza come proprio uno strumento che ha aperto una possibilità. E non c'è stata nessuna forma di vittimizzazione da parte di Joy, di Helen, di Priscilla, di Debbie e di Florence. Anzi, soprattutto Joy e Helen hanno fatto quello scarto fortissimo dal non voler essere vittime, di denunciarlo con forza, di creare, quindi di liberare questo spazio, che ha liberato anche dei mezzi materiali di cui ci siamo appropriate sia dentro che fuori. E per noi questa è la riappropriazione della violenza, e questo agire in comune, e quindi si è andate oltre da una semplice autodifesa. Poi non voglio sminuire assolutamente l'autodifesa, e probabilmente semplice non è il termine più adatto, però lì si è fatto qualcosa di più secondo me, e per quello ci tenevamo anche a portarlo nella forma narrativa del quinto quadro, ed esemplificava per noi proprio bene quello che indicavamo come riappropriazione della violenza. Poi so che fa effetto come termine, spesso ci viene fatta la domanda perché non forza, le donne si parla spesso di forza. Non lo so, la scelta è stata che forza, per chi l'ha scritto quel quadro e poi si è confrontata con le altre, forza andava ad essere più qualcosa che si impone, un ordine che viene imposto da qualcuno che ha del potere, anche una piccola parte, ma che ha del potere. E invece la violenza è qualcosa che distrugge, e distrugge proprio quell'ordine, e la storia è fatta di rotture, e di conseguenza ci piaceva proprio l'utilizzo del termine violenza, e Joy e le altre per noi l'hanno esemplificato molto bene, con noi anche, che abbiamo lottato insieme a loro, e qua insomma ci siamo anche conosciute con alcune delle presenti proprio per questo. Sì, anch'io sono estremamente d'accordo sulla riappropriazione del termine violenza, perché la violenza viene usata soltanto in negativo nei confronti di chi subisce della violenza e si ribella. Di fatto il termine violenza è applicato in negativo alla ribellione, quindi invece il fatto di riappropriarsi del termine violenza secondo me è molto importante, di tirarlo fuori da questo tipo di mistificazione in cui è stato infilato. Io volevo buttare lì una provocazione, chiamiamola così, proprio sul sessismo, no? Secondo me l'indagine sul sessismo andrebbe rifatta ed impostata totalmente da parte del movimento femminista a 360 gradi, perché personalmente ritengo fortemente sessista l'impostazione, per esempio, politicamente corretta. Cioè, quando gli uomini di potere, di sistema, gli uomini pubblici, ma anche l'uomo, io mi riferisco a quelli che scrivono, che leggono, ma anche quello che si ritiene l'uomo per bene, si rivolge alle donne in maniera politicamente corretta e la chiama avvocata, architetta, usa il doppio genere, è attento ai termini, a non usare espressioni tra virgolette sessiste, tra virgolette volgari. Cioè, questo atteggiamento profondamente ipocrita di una società che è profondamente sessista, che si ammanta del politicamente corretto, io lo ritengo molto più forte e devastante dell'atteggiamento, per esempio, sessista, dichiaratamente sessista, che ci può essere in alcuni ambiti di movimento. Io, questa è una provocazione che butto lì, perché secondo me l'analisi sul sessismo va rivista a tutto campo. Cioè, questo non significa che uno non deve condannare, o non sia giusto che condanni, o non sia necessario che condanni gli atteggiamenti sessisti comunque e dovunque, però non può esserci questa discriminante, questo doppio binario, per cui passa il politicamente corretto come atteggiamento nei confronti del quale non solo stiamo zitti, ma che riteniamo giusto, mentre è di un sessismo, non solo un sessismo doppio, perché ti prende anche in giro. E quindi per me è una cosa da rivedere dalle fondamenta. No, solo che c'è da qualche minuti, no, da mezz'ora, vi dico, c'è qualcosa che mi, cioè, non vorrei ripartire a tornare a casa senza a meno dirlo. Cioè, non lo so, non ho sentito delle cose molto eterocentrate. Cioè, dunque, mi chiedevo, ci sono delle lesbiche, c'è il lesbismo in mezzo al libro, in mezzo alla ref, c'è un discorso su questo o no? Solo per sapere. La cosa che è iniziata è una questione, forse tu non eri ancora arrivata, forse quando abbiamo parlato, è della questione del superamento del genere, in cui la costruzione sociale dei generi che riconosciamo e che vogliamo superare, no? Poi abbiamo parlato prima anche di una questione del patriarcato trasversale, no? Per cui che lo riconosciamo un po' anche nel discorso che faceva lei, ma anche nei generi e anche tra donne, no? Cioè, nel libro questa cosa è presente. Se poi mi chiedi se all'interno di Rete ci sono lesbiche, ti posso anche dire sì, ma sono esperienze personali, cioè, nel senso, il discorso è valido su tutti e due i generi, no? Se così li vogliamo identificare. Cioè, a noi quello che interessa è le relazioni tra le persone, tra donne e donne, tra uomini, perché c'entra le relazioni tra donne nel lesbismo, no? Appunto, noi trattiamo anche, cioè abbiamo affrontato anche quello proprio nella. Sì, no, io non ho sentito una parola. Cioè. Ma secondo me anche in questo di Margherita questo, che può sembrare etrocentrato, anzi, forse il lesbismo è quasi mitizzato, perché l'unica figura lesbica del libro è la figura positiva di riferimento per Margherita, è la figura che propone una relazione completamente alta e si oppone invece a tutte le relazioni di oppressione che Margherita ha con degli uomini. Quindi, se poi anzi è quasi il contrario. No, ma è una vera domanda, eh? Cioè. Sì, e poi l'accento è proprio sulle relazioni, quindi costruire relazioni di potere, sì, indipendentemente a questo punto dai generi che ci stanno in campo, perché parte il conflitto, parte anche da conflitti che noi avevamo all'interno di un collettivo separatista. Quindi anche dallo scoprire che quello non è un terreno scevro da dinamiche di potere, non è un terreno scevro da violenza. in ogni caso anche tra donne ci sono, anche grosse, anche gravi. Di conseguenza non, almeno forse non coscientemente, ma non siete in una strada di eteronormalità piuttosto che, però si è centrata sulle relazioni tra gli individui, tra le persone, indipendentemente dal loro genere a questo punto. Sì, è chiaro che è un po' astratto, è un po' astratto per me. No, è chiaro che come gruppo eterogeneo ognuno ha portato il proprio vissuto, quindi è chiaro che ognuna lesbica, non lesbica, ha portato il suo vissuto, quindi con una donna, con un uomo, nelle relazioni. Abbiamo messo anche in discussione la parola patriarcato, no? Perché anche in alcune presentazioni ci siamo ritrovate a dover specificare cos'era. E anche il fatto che a volte anche le donne replicano delle modalità o assumono dei modelli patriarcali, no? Perché in alcune presentazioni ci è stato chiesto, ma patriarcale è attribuito solo all'uomo, al genere uomo, perché vabbè, purtroppo qualcuno non ce lo chiede anche. E quindi dentro questo discorso abbiamo inserito le nostre esperienze personali, no? E che riguardano le relazioni anche. Chiaro, nel terzo capitolo, nella terza parte, chiaro, parliamo invece proprio di più nello specifico di relazioni uomo-donna per quanto riguarda la violenza, solidarietà, invece anche sì, nelle sì, relazioni sì, con donne, sì, no, no, è più al momento del corpo che... Non capisco perché tu, no, io voglio capire anche, no? Perché tu hai detto che ti risulta astratto quello che ha detto, no? Okay. Perché non l'ho capito, forse questo non l'ho capito nemmeno io, cioè nel senso ho sentito più volte dire questa cosa di del, scusa, incentrati su l'eteronormatività ma sulle relazioni, no? Non è cioè, no, però sì, è stato detto anche insieme da, insomma, mi sembra tutte e due questa cosa più volte è uscita di cercare di superare i generi, no? E eppure mi sembra tu prima hai detto una cosa anche su una frase, scusate, sono suggestioni e dubbi che mi vengono su un problema è stato il pensiero della differenza sessuale, forse qualcosa del genere, no? Allora, il femminismo della differenza, sì, ok, no? E mettevo insieme tutte queste cose, cioè, e non mi era ben chiaro che cosa voleva dire questo questo tentativo di voler superare i generi, nel senso che se io rifletto sulle relazioni tra, cioè, tra le persone, nel senso per me ovviamente è difficile trascendere i corpi e i posizionamenti dei soggetti, no? Per cui ovviamente, cioè, capisco cosa possa voler dire andare oltre il genere, nel senso una visione normativa, no? Del genere, modelli imposti, quello sì, però... cioè credo che invece, cioè, anche, voglio dire, posizionarsi come lesbica, come femminista e come donna siano cose diverse in un contesto di, sia di relazioni umane che di relazioni politiche, no? No, certo. Questo forse non è... No, prego, perché era un dubbio che attanagliava anche me. No, forse non ci siamo allora spiegate bene. Per quanto riguarda Refe, al momento non c'è stato né un confronto né una discussione sul superamento. Probabilmente il termine più esatto era indipendentemente dal genere, è quello che dovevamo usare. Sì, sì, no, magari l'ho frainteso io, perché no, altrimenti no, ma è solo per capirci. Questa cosa è uscita forse a Milano dopo la presentazione. Come si può essere? Cioè, qualcuna ha detto, qualcuna ci ha posto anche la questione superare i generi, voi parlate di generi dandogli però più che non si vuole su la categoria genere in termini normali. Esatto, in termini normali. E quello che invece è la costruzione, come dici tu, era, scusa, era una cosa che volevo aggiungere a quello che dicevi tu, era che l'abbiamo impostata cominciando a parlare dell'immaginario. Cioè, non è che non vogliamo costruire altro, però vogliamo, come dire, partire da superare, forse quella parola è stata usata per dire ok, questo è quello che ci hanno costruito sopra, lo identifichiamo, ora vogliamo costruire altro, non in negazione, non sono questo, non sono quello, ma cosa vuole essere, cosa sono, in senso costruttivo, quindi come dicevo. E l'abbiamo iniziato a fare con la questione parlando dell'immaginario. Però effettivamente nel libro non è già iniziata questa discussione, questo che forse prima ci siamo cioè nel libro è solo accennata in parte nella parte del corpo, ma tutta la questione della comunità altre dell'immaginario non è scritta, ecco, cioè abbiamo cominciato a parlarne ma non è scritta nel libro. Forse lì che c'è stato il... Perché avevamo anche iniziato a parlarne con un incontro con Daniela Pellegrini e da lì infatti è uscito il luogo terzo che era stato citato prima, perché ma è stata avviata una discussione, quindi probabilmente è stato anche utilizzato il buon elemento interno. No, no, ma è semplicemente cioè, cercare di capirsi cosa intendiamo, cioè qual è insomma appunto, i significati che diamo alle parole. E poi come c'è scritto nella seconda parte sul corpo è forse la parte più aperta ed è quella parte che infatti ci ha traghettato verso l'immaginario. Anche le altre due, ma lì ci siamo accorte che nei momenti di discussione, quando ci ritrovavamo tutte e tre le città, no? Che era solo in alcuni tasselli del percorso, erano uscite cose che verranno probabilmente sviluppate poi nell'immaginario, degli aspetti estremamente interessanti che però alla campeggia le compagne non erano arrivate ancora ad approfondirli, quindi è sicuramente quella parte che ancora... cioè che è quella che ci dà più respiro, va anche detto, e quindi... Sì, forse io ho capito, se non sbaglio, quello che tentavi di dire tu sulla visione del corpo, che ti è sembrata una riflessione da un punto di vista etero, in quel senso lì. Che secondo me è nella parte del corpo, però la sua visione del suo corpo, perché una parte della costruzione della visione del suo corpo è proprio il riguardo maschile. E quando comunque nella sessualità, per esempio, comunque dai il tuo corpo allo sguardo intimamente di un'altra donna, comunque ti cambia il corpo. Potete andare a rileggere Il corpo lesbico di Wittig, ma per esempio questa decostruzione e ricostruzione è un altro corpo, come non è uscito, non c'è. Cioè, e che per me è una cosa enorme, quando Elisabetta raccontava come alcune cose gli avevano completamente cambiato il corpo, a me mi è venuto a questo, per esempio. Però scusa, lo sguardo femminile è comunque contaminato comunque da la nostra cultura, la nostra società, per cui ti parlo ovviamente totalmente quello totalmente ignorante, non sono lesbica, per cui non ho neanche affrontato mai questo discorso, però mi dici questa cosa, perciò me lo chiedo, perché dici guardato da una donna il nostro corpo assume un altro aspetto. Invece io penso che in questa società noi come donne viviamo tantissimo lo sguardo femminile, e che è contaminatissimo da questa società, nel senso che il patriarcato è spostato dalle donne. Ok, no, vabbè, era solo per capire, no, cioè perché come l'avevi detto al mio orecchio sembrava come se ci guardiamo tra donne siamo dentro una sessualità, dentro un'individualità. Ok. Bene. Sì, chiaro, questa parte non è sviluppata nello scritto del libro, è una discussione comunque che è un po' è partita tra di noi, ma vabbè, non ancora. Per cuorlo, perché cioè, anche perché noi fai presente un grande percorso di lesbismo, condivisione tra lesbiche su questa cosa là. No, niente, mi viene da pensare che noi nelle nostre discussioni non abbiamo quasi mai parlato di sessualità. E penso che sia significativo, perché abbiamo parlato di situazioni forse più di sofferenza, di oppressione, che di situazioni che ci hanno dato gioia e di situazioni potenzianti. Nel nostro gruppo ci sono donne che vivono la propria sessualità sia con donne che con uomini, ma non è mai uscito questo aspetto, questa differenza fra noi. Secondo me è qualcosa che sarebbe venuto, verrà fuori con il proseguire della discussione, perché noi, voi adesso vedete il libro finito, ma il libro è solo una tappa, cioè il libro è come eravamo noi in quel punto della discussione, in quel momento. Sicuramente questo è uno spunto interessante ed è qualcosa che per il momento non eravamo ancora arrivate a discutere, e ci siamo anche chieste perché non abbiamo parlato di momenti potenzianti, perché abbiamo parlato di un corpo vissuto anche con travaglio, con abbiamo parlato di questa scoperta di riconquista del proprio corpo come un momento che ti dà forza ma che è doloroso. E penso che questo sia dovuto anche al metodo che abbiamo utilizzato, quindi l'autocoscienza è partire da sé, ripercorrere dei momenti significativi ma difficili, però sicuramente nel nostro percorso, nella nostra discussione che va avanti, penso che questi sguardi nuovi e potenzianti possano emergere. Bene, direi di andare a cena. Grazie alle compagne. Grazie a voi.